La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con La storia e la memoria. In occasione della giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie che ricorre oggi, Dino Pesole dedica il suo approfondimento alle origini della mafia in Italia e alla sua successiva espansione nel resto del mondo. Ospite ai nostri microfoni Giuseppe Carlo Marino, docente di storia contemporanea all'Università di Palermo. Nella seconda parte prosegue la storia sulle attività di spionaggio del KGB. La versione integrale andrà in onda su History Channel martedì 24 marzo alle 3.45 con il titolo Il KGB in Germania, parte seconda. Ma ora la parola va a Dino Pesole. Dall'onorata società a Cosa Nostra, di mafie e organizzazioni criminali organizzate, ve ne sono, come sappiamo, molte nel mondo, ma quella siciliana è la mafia storica. È stata definita la madre di tutte le altre. Oggi, primo giorno di primavera, si è svolta a Napoli la 14ª edizione della Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie, promossa da Libera. L'etica libera la bellezza, riscattare la bellezza, liberarsi dalle mafie, è lo slogan che ha accompagnato la manifestazione che è stata seguita per l'intera giornata da Radio 24. Abbiamo scelto Napoli, ha dichiarato Don Ciotti nel presentare la manifestazione, per valorizzare il positivo, dimostrare che c'è un'Italia che non si arrende, che non cede allo scetticismo e alla rassegnazione, che non pensa solo a sopravvivere, ma che vuole vivere, che lotta e si impegna per affermare la libertà e la dignità di tutti. Ma quando nasce nel nostro paese la mafia? In che modo si è sviluppata ed estesa in altre parti del mondo? Diversi studiosi osservano come la mafia cominci ad apparire nei documenti ufficiali dopo la formazione del Regno d'Italia, nelle relazioni di alcuni prefetti dei governi della destra storica. Ma già qualche decennio prima, nel 1838, a Trapani, il magistrato Piero Calà Ulloa descriveva così in un famoso documento il nascente fenomeno mafioso. Non vi è impiegato in Sicilia che non sia prostrato al cenno di un prepotente e che non abbia pensato a tirar profitto dal suo ufficio. Questa generale corruzione ha fatto ricorrere il popolo a rimedi oltremodo strani e pericolosi. Vi ha in molti paesi delle fratellanze, specie di sette che dicono partiti, senza colori o scopo politico, senza riunione, senza altro legame che quello della dipendenza da un capo, che qui è un presidente, là un arciprete. Sono tante specie di piccoli governi nel governo. La mancanza di forza pubblica ha fatto moltiplicare il numero dei reati. Il popolo è venuto a tacita convenzione con i rei. Come accadono i furti, escono i mediatori ad offrire transazione per il recupero degli oggetti involati. Il numero di tali accordi è infinito. Il termine mafia compare in ogni caso per la prima volta in un lavoro letterario, I mafiosi di La Vicaria, scritto da un autore popolare, Giuseppe Rizzotto. La mafia si forma all'interno del tessuto sociale della Sicilia per generazione spontanea, in una realtà in cui i privilegi e le immunità equivalevano di fatto alla legge. Lo storico Giuseppe Carlo Marino descrive così l'origine del fenomeno mafioso. La mafia non è mai stata qualcosa di simile ad un'elementare espressione di protesta popolare contro i potenti, come si è spesso favoleggiato. Al contrario di Robin Hood, il simpatico ribelle di Nottingham, mai il mafioso avrebbe lottato per far trionfare la giustizia e i diritti sull'arroganza e la sopraffazione. Sarebbe stato invece l'esponente di un ceto emergente di sopraffattori, di una borghesia parassitaria decisa a farsi strada spregiudicatamente per condividere il potere dei signori. L'obiettivo dell'ascesa del mafioso non poteva non essere difeso e salvaguardato a oltranza da ogni possibile attentato interno o esterno. Questo spiega l'originario e permanente carattere conservatore del fenomeno mafioso, la sua costante passione per l'ordine e per la stabilità, e la sua tendenza a ritrovarsi sempre e comunque dalla parte del potere. Se questa è l'origine del fenomeno mafioso in Italia, poi nel corso del tempo la mafia è divenuta, come sappiamo, un vero e proprio potere, l'onorata società con tanto di codice, disciplina, regole e gerarchie, che nel Novecento, in seguito alla massiccia emigrazione che ha investito il nostro paese, sono sbarcate oltreoceano, in America, dando così alla mafia un nuovo volto e una nuova configurazione internazionale, pur mantenendo inalterato il forte radicamento territoriale. Giuseppe Carlo Marino insegna storia contemporanea all'Università di Palermo ed è autore di numerosi libri sulla mafia, tra cui segnaliamo Storia della mafia, pubblicato da Newton Compton. Buonasera, professor Marino. Buonasera. Professore, com'è cambiata la mafia negli ultimi decenni rispetto alla mafia, per così dire, delle origini? I cambiamenti sono stati molteplici. Il fenomeno è stato, per così dire, oggetto di processi di ibridazione. Siamo passati, si può dire, da una mafia il cui nucleo essenziale era l'alleanza tra i baroni e la delinquenza organizzata, a un'altra tipologia, quella più moderna dalla seconda metà del secolo XX, in cui il nucleo fondamentale è costituito dall'alleanza tra quella che anche i magistrati chiamano la borghesia mafiosa e il sistema dilatato della corruzione pubblica che coinvolge naturalmente anche la criminalità organizzata. Da questa fase siamo passati, o stiamo passando forse, ad una fase ulteriore che segna, per così dire, la disfatta e la disgregazione della organizzazione verticale e verticistica di Cosa Nostra, che era nata negli anni 30, e che apre alla trasformazione di un sistema reticolare di mafie internazionali, tanto che oggi il termine mafia con riferimento alla tradizione siciliana sta diventando superato ed è più opportuno parlare appunto di mafie al plurale. Infatti, ed è quello che si fa normalmente quando ci si riferisce ai vari, diciamo, alle varie criminalità organizzate nel nostro paese. Ma professore, il radicamento della mafia? Il radicamento della mafia parte da un presupposto che io mi sforzo di rendere evidente, sul quale insisto da decenni. E il presupposto è che la mafia non è solo o preminentemente delinquenza organizzata, ma che la delinquenza organizzata è l'aspetto operativo, per così dire il braccio esecutivo del sistema mafioso, che è un sistema di potere complesso, nel quale sono coinvolte forze apparentemente non mafiose, addirittura forze ufficialmente depositarie della legalità. Perché il gioco della mafia è sempre stato quello di coniugare legalità con illegalità e cercare di utilizzare la legalità ai fini delle sue operazioni illecite fino a quelle criminali. In questo senso, professore, non è molto diversa dalla mafia delle origini, allora? Naturalmente. La mafia delle origini è appunto questa coniugazione forte tra legalità e illegalità che passava attraverso anche la strumentalizzazione dello Stato o dei poteri pubblici. Questo fenomeno rimane pressoché inalterato e comunque rappresenta il fattore di continuità tra la mafia delle origini e quella dei nostri giorni, che si va dilatando nei processi di globalizzazione. La storia e la memoria. Ben ritrovati. Vi proponiamo la seconda parte del radiodocumentario sulle attività di spionaggio che il KGB organizzò in Germania nel dopoguerra. Vi segnaliamo anche che potrete vedere questo documentario su History Channel martedì 17 marzo alle 3:45. Fine degli anni 70. In un luogo imprecisato della Germania Ovest, un'agente donna del KGB, il servizio segreto sovietico, si prepara per la sua missione. Deve sedurre un ufficiale delle forze armate della Germania federale e indurlo per qualche tempo a rivelare segreti militari. Si tratta di quella che i servizi segreti definiscono una trappola al miele. Vladimir Shirokin, ex generale del KGB. Da noi c'era una collaboratrice segreta che era giovane, ma non particolarmente carina, almeno secondo me. Però ci sapeva fare molto in materia di sesso. Il KGB ricorre di continuo alle trappole al miele. Fanno parte della sua strategia contro l'Occidente e la Repubblica Federale Tedesca. Il nostro reparto ha lavorato contro i servizi speciali di Germania, Stati Uniti, Francia e Inghilterra con un unico scopo: infiltrarci al loro interno, avere delle fonti di informazione e poter sapere con precisione cosa avrebbero fatto contro la nostra patria, contro la nostra gente e contro le nostre unità. E qualche volta abbiamo svolto alla perfezione questo compito. La persona al centro dell'operazione del KGB viene tenuta già da mesi sotto stretta osservazione. Attraverso pedinamenti e intercettazioni, il KGB riesce a conoscere le abitudini e le debolezze dell'uomo. È un ufficiale delle forze armate e lavora in un ente militare, sul quale fino ad oggi non è noto alcun dettaglio, dove ha accesso a informazioni scottanti. Il suo nome è Gerhard Müller, tenente di vascello della Bundeswehr. Per ogni uomo bisogna riuscire a trovare il modo per arrivare a lui personalmente. Come programmato, viene organizzato un incontro tra l'agente e la vittima designata. Müller non si accorgerà che la donna è stata mandata dal KGB. Ivan Ustinov, ex generale del KGB. Si trattava di una relazione di natura puramente sessuale. Oggi lo si può dire apertamente. Prima la parola sesso non si poteva neanche pronunciare. La storia di sesso si trasforma in una relazione e infine in un matrimonio. Il KGB è sempre in ascolto. In genere gli ufficiali presi in trappola rivelano preziose informazioni. Sulla base di questa stretta relazione amorosa e sessuale, venimmo a conoscenza di moltissimi dettagli su di lui. Scoprimmo i suoi punti forti e quelli deboli. Alla fine decidemmo che la nostra agente doveva convincerlo a passare dalla nostra parte. Nel novembre del 1978 la moglie attira Müller con un pretesto nella DDR. Lì il KGB cerca ulteriormente di convincerlo a collaborare. Ci rivelò i suoi segreti d'ufficio, dopodiché lo consegnammo ai nostri colleghi della Germania Est. A Birkenwerder la Stasi si prende cura di lui e lo prepara per una particolare messa in scena propagandistica escogitata dai compagni della dirigenza della DDR. Gunther Bonsack, ex colonnello dei servizi segreti della DDR. Ormai era nelle nostre mani, se così si può dire, e doveva tenersi a disposizione per le pubbliche relazioni. Per dirla semplicemente, doveva raccontare storie che ci eravamo inventati. Alcuni mesi dopo, Müller viene indicato alla televisione della DDR dal capo della propaganda, Eduard von Schnitzler, come teste chiave della minaccia atomica della NATO. Visibilmente imbarazzato, Müller legge slogan preconfezionati. L'impiego di armi nucleari da parte della Bundeswehr era stato programmato fin dall'inizio degli anni 60 ed erano state adottate le misure preparatorie per la realizzazione di questo progetto. Durante questi anni, l'impiego di simili armi è stato testato nel corso di manovre di esercitazione. Dopo la sua apparizione in TV, Gerhard Müller rimane nella DDR. Sua moglie, l'agente del KGB, una volta portata a termine la sua missione, lo aveva immediatamente lasciato. Fino ad oggi nessuna delle due parti ha rivelato di quali segreti il KGB sia venuto effettivamente a conoscenza tramite Müller. Per il KGB l'operazione è un successo. Yasenievo, un sobborgo di Mosca. Qui si trova il nuovo quartier generale del servizio di controspionaggio estero del KGB, il cosiddetto primo direttorato centrale. la Germania è già da tempo uno dei suoi obiettivi principali. Leonid Shebarshin, ex capo del centro di spionaggio estero del KGB. Ai miei tempi, la Germania Ovest e quella Est erano particolarmente importanti per l'Unione Sovietica e per la nostra politica. Si trovavano al centro dell'Europa e di lì passava la linea del fronte della Guerra Fredda. Il lungo braccio del KGB arriva fino nel cuore della Repubblica Federale Tedesca. Sulle sponde del Reno, in mezzo alla folla di turisti e agitanti, fin dalla nascita della Repubblica Federale Tedesca, ufficiali del KGB, spie e agenti lavorano per minare alla base e destabilizzare la giovane Repubblica. Nelle vicinanze di Bonn, in una posizione idilliaca sulle rive del Reno, sorge l'ambasciata sovietica. Dietro le mura decorate risiedono non solo diplomatici. Circa la metà degli impiegati sono ufficiali del KGB. Heribert Hellenbroich, ex capo servizi segreti Repubblica Federale Tedesca. All'epoca ogni ambasciata dei paesi del patto di Varsavia ospitava una cosiddetta residentura, cioè ufficiali del controspionaggio che svolgevano il loro lavoro dall'ambasciata dove, come i diplomatici, godevano del diritto di extraterritorialità. La residentura era indipendente dal resto del personale dell'ambasciata, ma quando si trattava di questioni relative ad attività nel paese nemico, a comandare non era l'ambasciatore, bensì il suo capo, ovvero il residente. Boris Laptev fu per molti anni residente del KGB a Bonn. In virtù di questo fu uno degli uomini più sorvegliati della Repubblica Federale Tedesca. Sì, capisco che in quanto esponente del campo nemico dovevano tenermi d'occhio, questo era comprensibile. C'erano tantissimi momenti in cui venivo pedinato da vicino dai servizi della Germania Ovest. Era una cosa che accadeva molto di frequente. Venivo pedinato da diverse squadre che mi seguivano in auto a tutte le ore. Il compito del residente nel paese nemico è uno dei più impegnativi che il KGB possa assegnare. Il residente passa molto tempo a sfuggire ai pedinamenti per potersi incontrare con altri agenti senza essere osservato. Il residente e i suoi collaboratori si muovono in tutta la Repubblica Federale Tedesca. Da Bonn comandano una vasta rete di spionaggio. I loro agenti sono dappertutto, persino nei ministeri di Bonn. Lì le segretarie hanno accesso a tutti i documenti importanti. Già dalla fine degli anni 50, il KGB, insieme al suo servizio segreto amico, la Stasi della DDR, cerca di utilizzarle come fonti di informazione. Agenti scelti del KGB, i cosiddetti Romeo, devono far credere loro di amarle. Heribert Hellenbroich, ex capo servizi segreti Repubblica Federale Tedesca. Prendete la segretaria del cancelliere federale nell'ufficio del cancellierato, o la segretaria del direttore generale di qualche ministero, o quella del segretario di Stato. Ha accesso alle informazioni e non interessa che abbia determinate idee politiche, deve limitarsi a consegnare documenti originali. Fu così che a un certo punto si è arrivati ad avere nella cancelleria federale quattro segretarie che al tempo stesso erano attive come agenti. E potete immaginare cosa arrivava lì solo di documenti. È stato accertato che in genere non erano sposate e frequentavano i caffè da sole, in cerca di un uomo. Di solito non erano molto attraenti, ma sul lavoro erano bravissime. Così gli agenti Romeo si sedevano nei caffè il sabato e facevano la posta. E in molti casi riuscivano ad abbordarle. Nel 1968 l'Ufficio federale per la tutela della Costituzione vuole informare le potenziali vittime mediante un documentario. Racconta di una trappola reale tesa da un agente Romeo, il caso di Leonore Sutterlin, che viene reclutata per conto del KGB dal marito Heinz. A casa Heinz Sutterlin fotografa i documenti di sua moglie. Poi invia i rullini a Mosca con un corriere del KGB. Pare che abbia trasmesso più di 2.900 documenti. Dopo 6 anni di attività per il KGB, Leonore Sutterlin e il marito vengono smascherati e arrestati. In tribunale, Heinz Sutterlin dichiara di aver sposato sua moglie solo su istruzione di Mosca, ma di non averla mai amata. Quando Leonore Sutterlin viene a saperlo, si suicida in carcere. È solo una delle innumerevoli vittime della cosiddetta Guerra Fredda, cinicamente messe in conto dagli strateghi. Thank you. La storia e la memoria. Continuiamo il radiodocumentario dedicato alle attività di spionaggio che il KGB organizzò in Germania durante la Guerra Fredda. Nel cuore di Berlino corre una frontiera impenetrabile. Con la costruzione del muro nel 1961, la DDR è sbarrata ermeticamente. Dietro il muro che divide in due la città, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale il KGB ha stabilito il suo quartier generale tedesco. In questo periodo, al di fuori dell'Unione Sovietica, è la più grande centrale del KGB al mondo. L'edificio, posto sotto stretta sorveglianza, si trova nel quartiere di Karlshorst, a Berlino Est. Lì, su una superficie di 64 ettari, dietro alti muri e recinzioni di sicurezza, lavorano fino a 600 ufficiali del KGB. Dietro i muri si nascondono edifici amministrativi, abitazioni e persino una clinica. Oleg Gordievsky, ex colonnello del KGB. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, il KGB aveva impiantato questo grande quartier generale nella Germania Est. Rapidamente era stata messa su una grossa organizzazione lì a Karlshorst. Negli anni 70 la DDR contribuisce annualmente con 1,3 milioni di marchi al mantenimento della base. E il Ministero per la Sicurezza di Stato della Germania Est lavora a stretto contatto con il KGB. Ufficialmente l'amicizia tra la DDR e l'Unione Sovietica è incrollabile, anche se in genere è Mosca a dettar legge. Ma dietro le quinte la Stasi della DDR si sente perlomeno alla pari con i compagni sovietici. Volker Furch, ex generale del KGB. Ogni potere proveniva da Mosca, ma anche noi eravamo abbastanza sfrontati da riconoscere il nostro valore e lo davamo ad intendere quando dicevamo «gli amici ritengono» o «gli amici hanno detto». E la parola «amici» veniva accompagnata da un ammiccamento più o meno marcato, come a dire «sì, certo, gli amici». Negli anni 70, nel quartier generale della Stasi, in Normannenstrasse, a Berlino, la fiducia in sé cresce. In questi anni, per il Ministero per la Sicurezza di Stato, lavorano 263.000 collaboratori ufficiali e non ufficiali. Erich Milke, ministro per la Sicurezza di Stato della DDR, non si fida di nessuno. Neanche degli amici di Mosca, sebbene ufficialmente sia in ottimi rapporti con loro. Dal suo ufficio ordina di mettere di nascosto delle cimici negli uffici del KGB nella DDR. Gli esperti di intercettazione del suo ministero ascoltano le conversazioni, persino negli alloggi di servizio di ufficiali di alto rango del KGB. A volte gli interessati se ne accorgeranno solo dopo anni. Ivan Kuzmin, ex capo analista del KGB. Una volta mia moglie ricevette la visita di una collaboratrice della Stasi della DDR. A un certo punto la donna disse: «Il ministro Milke è in primo luogo un soldato stupido e in secondo luogo un vecchio puttaniere». Mia moglie controbatté alla sua interlocutrice dicendo: «Però il ministro è un vero comunista e internazionalista». Comunista, internazionalista e tutto. Quell'episodio ebbe il seguente risultato. Quando il mio periodo di servizio in Germania si concluse e insieme ai miei superiori mi incontrai con il ministro per congedarmi, Milke mi diede un mazzo di fiori per ringraziare espressamente mia moglie. Se n'era ricordato. La guerra fredda è al culmine. Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno costruito la più potente macchina militare che l'umanità abbia mai conosciuto. Agli occhi di Mosca, sono sempre un passo avanti. Il KGB e i suoi servizi segreti amici si interessano ai processi decisionali dell'Occidente. Questo si ripercuote particolarmente sui politici della Germania Ovest. Ignoti fanno irruzione nell'abitazione privata dell'esponente della SPD, Egon Bahr. Una volta fecero irruzione in casa mia, ma non portarono via nulla di importante. E in seguito pensai, non so quale servizio segreto sia stato qui, e del resto me ne infischio. perché se si tratta dei nostri servizi, allora hanno ovviamente tutto il diritto di controllare che succede. Non mi preoccupo perché mi sento dalla parte giusta. Anche se si tratta degli americani, la cosa non mi preoccupa perché sono in ottimi rapporti con Henry Kissinger. Se si tratta dei francesi, bene, vorrà dire che verranno a conoscenza di qualcosa che altrimenti non saprebbero. Lo stesso vale per gli inglesi. Se si tratta dei russi o della DDR, pazienza, bisognava sopportare. L'avevo messo in conto come qualcosa che non potevo cambiare, ci dovevo convivere. All'epoca Egon Bahr è il consigliere più importante dell'esponente della SPD, Willy Brandt. Questi fa una rapida carriera, da borgomastro di Berlino fino a cancelliere federale. Brandt vuole inaugurare una politica di apertura nei confronti dell'Est. Già come borgomastro di Berlino Ovest, è stato egli stesso bersaglio di numerose campagne del KGB e della Stasi della Germania Est. Brandt vuole rendere meno rigidi i fronti. Dietro suo incarico, Egon Bahr deve organizzare dei colloqui riservati con la dirigenza politica a Mosca e aprire un cosiddetto canale informale con l'Unione Sovietica. Egon Bahr esegue quanto richiesto. Non fui io a cercare il canale, bensì il cancelliere federale. Poco dopo aver assunto il cancellierato, mandò una lettera confidenziale al suo collega Kosygin con l'offerta di colloqui riservati. E la risposta venne recapitata da un giornalista, il quale in seguito mi fece conoscere un altro uomo che chiamava Slava. Egon Bahr incontra nella sua abitazione privata l'inviato Slava, che in realtà è il generale del KGB Vyacheslav Kevarkov. Lo stesso KGB tiene strettamente segreto questo contatto, anche davanti agli alleati della DDR. Agenti della Stasi della DDR erano penetrati in casa di Egon Bahr ancora prima dei colloqui e vi avevano installato un apparecchio di intercettazione. Gunter Bonzak, ex colonnello dei servizi segreti della DDR. All'epoca avevamo installato delle cimici nel pavimento dell'appartamento di Bahr, perciò potemmo ascoltare tutti i suoi colloqui. Tuttavia, non è in questo modo che venimmo a conoscenza dei dettagli di quanto venne discusso in quella sede, ma li apprendemmo per altre vie, attraverso la cancelleria federale. Lì la Stasi ha una sua talpa infiltrata nell'entourage di Willy Brandt, Gunther Guillaume. Così, ovviamente, venimmo a sapere che riceveva personalità sovietiche provenienti da Mosca, con le quali era in rapporti molto amichevoli e con cui teneva anche dei colloqui. I contatti di Egon Bahr con il KGB e ulteriori trattative rendono possibile la visita di Stato di Willy Brandt a Mosca. Il cancelliere federale e Egon Bahr sanno di esporsi a un grosso rischio. La sola divulgazione dei colloqui segreti potrebbe provocare una crisi politica. Ma la manovra azzardata riesce, almeno per il momento. Oleg Gordievsky, ex colonnello del KGB. Willy Brandt, che ancora ai tempi in cui ricopriva la carica di borgomastro era una figura del tutto ostile, alla fine degli anni 50, in qualità di presidente della SPD e cancelliere, diventò improvvisamente per noi un personaggio amico, tra virgolette. E il fatto che Guillaume venne scoperto nel 74 fu un autogol, perché ebbe conseguenze non volute. Nella primavera del 1974 la spia della Stasi Gunther Guillaume viene smascherata. Il cancelliere federale Willy Brandt si dimette. Molto probabilmente il KGB sapeva di Gunther Guillaume. Nonostante la distensione politica, in quello stesso periodo il KGB lavora intensamente contro la Repubblica Federale Tedesca. A Mosca forma ulteriori unità operative da impiegare contro l'Occidente. Anche in futuro, la Repubblica Federale Tedesca continuerà ad essere il suo più importante teatro di operazioni in Europa. In centri di addestramento a Mosca e dintorni, i futuri ufficiali del KGB ricevono un'istruzione lunga e approfondita. La loro formazione dura diversi anni. Filmati didattici hanno lo scopo di preparare gli aspiranti ufficiali ai pericoli che possono correre all'estero. Nonostante tutto, è un lavoro ambito. ci si dà grande importanza e si hanno possibilità che altri non hanno. L'addestramento comprende un corso di 2 anni all'Accademia del KGB di Mosca. Lì gli uomini del primo direttorato centrale, il Dipartimento per lo spionaggio estero, imparano il loro mestiere. Il 15 gennaio 1990 i dimostranti assaltano la sede della Stasi in Normannenstrasse a Berlino Est. La Stasi viene sciolta. Con la caduta del muro è evidente che il KGB non potrà più mantenere la sua base nella DDR. Oggi la centrale del KGB a Karlshorst non nasconde più alcun segreto. Tutti i suoi dati e i suoi impianti vennero portati di nascosto a Mosca. Dal 1991 il KGB è ufficialmente sciolto. Le organizzazioni che hanno preso il suo posto lavorano ancora oggi. Vladimir Shirokon, ex generale del KGB. La storia non si ferma mai. E anche la vita va avanti con tutte le conseguenze, anche spiacevoli, che questo comporta. Il lavoro dei servizi segreti, le guerre, il terrorismo, le carestie, le catastrofi ambientali e via dicendo. Ancora oggi, nella Germania riunificata, sono attivi i servizi segreti russi. Secondo l'Ufficio federale per la tutela della Costituzione, in tutto il mondo i servizi segreti russi dispongono di circa 13.000 collaboratori. Prima di chiudere, vi ricordiamo che la versione integrale del documentario che avete appena ascoltato andrà in onda su History Channel martedì 17 marzo alle 3.45 con il titolo Il KGB in Germania, parte seconda. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Daniele Casagrande. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.